sogno, ritorno da te. Profondo è il mare che ricorda il tempo che eri qua. Spumeggia mentre scivola. Volte in sogno, ritorno da te. Ho bisogno almeno che sappia che sempre sarai qua. E sorride mentre scivola. Scivola. Quante volte al giorno ripenso per te. Ritorno indietro per stare con la mia piccola. Mentre la pioggia scivola e là intorno si sentirà come di lacrime perdono. E anche il suo vento se ne va, come la pioggia scivola. Piccola, ciò che guardi più tardi passato diventa. Rimarrà sulla soglia quando l'alba mi addormenta. E basta la musica, basta la melodia, sul tavolo scivola. Basta, prendermi, basta, così non va. C'è più sogno che ancora non è. Sogno, ritorno da te.